è un traguardone, ti dico la verità, questa edizione è veramente molto, molto speciale. Abbiamo lavorato sodo per cambiare un po' il modo di vedere una convention, perché ormai ce ne sono tantissime dappertutto e pian piano stiamo cambiando un po' la visione proprio di fare un evento dove non è solo il commercio che prevale, ma è una storia, una simbologia, un modo molto più spirituale e non così estetico, diciamo. Abbiamo radunato la vecchia scuola, tanti della vecchia scuola e quelli che hanno fatto proprio la storia. Quest'anno ci abbiamo dei nomi incredibili che non si sono mai riuniti qua, è la prima volta in Italia che abbiamo la giuria, che è Philip Liu, Ken Ken di Parigi e Luke Atkinson, inglese, che vive a Stuttgart. Philip Svizzera è uno dei più conosciuti al mondo, è una leggenda del tatuaggio, lui, la famiglia, col papà, la mamma, e questi sono personaggi che non sono mai venuti in Italia insieme, specialmente a fare una giuria. Saranno sul palco tutti e due giorni. Complessivamente sono oltre 300 i tatuatori, giusto? Sì, abbiamo ovviamente una giuria di tatuatori incredibili che tatueranno anche nello show, però gli altri abbiamo diminuito, l'anno scorso erano un po' di più, abbiamo arrivati a 300 per dare più spazio, più valore a ogni persona, perché mettere troppa gente alla fine, troppi tatuatori, meglio cominciare a lavorare più non nella quantità, ma in avere molta qualità, anche se siamo in tanti, c'è tanta gente, ma chiaramente un evento così grande rischia di diventare un po' commerciale, invece noi pian piano stiamo cercando di farlo più di nicchia, diciamo. E ce ne sono molti, vedo anche una ventina, insomma, bolognesi, e l'Emilia Romagna ha una bella tradizione in questo senso. Come regione in Italia, l'Emilia è stata una di quelle che anche lei ha spinto negli anni 80, diciamo che ogni città aveva il proprio tatuatore già negli anni 80, cosa che magari nel sud non si trovava ancora, e l'Emilia ha dato molta spinta su questa cosa, sì. Bologna specialmente ha avuto un riscontro di tatuaggi già dagli anni 80, si vedevano tatuati e tatuatori ancora, già in azione, diciamo. Marco Pisa era stato uno di questi ai tempi, o con Marco Leonico, ragazzo con cui io organizzo questa convention, che avevano aperto al mondo del tatuaggio negli anni 80. Durante questa convention ci saranno diversi contest, ma a me ha colpito molto il Best Old Tattoo. Che cos'è? Questo contest sul vecchio tatuaggio non l'ha mai fatto nessuno, in tutte le convention non è mai esistito, perché tutti vogliono far vedere lavori nuovi, lavori freschi, lavori fatti al momento, e non si dà più valore all'antico, al vecchio. Cioè, il tatuaggio vecchio è quello che capisci cosa è rimasto sotto pelle, perché un tatuaggio nuovo può darsi che per un primo anno sembra che il colore è tutto saturo sotto, secondo pure, poi comincia a sfagliare perché magari è stato un po' troppo leggero il lago di quel tatuatore quella volta, e è nel tempo che vedi i tatuaggi veramente come sono stati fatti, se sono stati fatti con una tecnica che è veramente ti porta fino alla tomba, insomma. È un'informazione che bisogna che diamo a tutti quanti. Tutti ci cercano di tatuare di tutto e non danno, sicuramente non pensano al domani, quando invece il domani, se vuoi avere un bel lavoro sulla pelle, ci devi pensare assai. I tatuatori esperti, che sono quelli che veramente tatuano da anni e hanno capito cosa vuol dire cosa rimane sotto pelle, lì è un'informazione per vedere il vecchio, far salire i tatuaggi prima del 2000, abbiamo deciso che devono essere almeno antecedenti al 2000, pelle viva e mediana, come vediamo la pelle cambia, diventa più rugosa, si invecchia, e così il tatuaggio sotto si muove, quindi è inutile cercare di fare lavori troppo complicati, troppo linee troppo vicine, colori magari non abbastanza saturi, un po' leggeri per fare un effetto, lo vedi bene quell'anno, il secondo anno, poi pian piano comincia a sfagliare il lavoro, quindi abbiamo deciso di fare questa competizione apposta per far vedere i lavori che rimangono nel tempo. Quello che hai appena detto è molto interessante, perché implicitamente risponde anche un'altra domanda che volevo farti, cioè oggi il tatuaggio è diventato un fenomeno di moda, chiunque praticamente tatuato, ma questo non vuol dire che ci sia una consapevolezza, una cultura approfondita. Cerchiamo di fare una convention che comincia a dare informazione ai tatuati e ai tatuatori nuovi che non hanno un concetto del futuro. Se vuoi arrivare ai 70 anni e che ti si veda ancora la rosa che hai, che hai fatto a 20 anni o qualsiasi altra cosa, deve essere stata fatta già con quel concetto, pensandolo che dovrebbe arrivare ai tuoi 70 anni, 80, che non vedi uno scarabocchio. Ovviamente ci sono anche un sacco di eventi collaterali. Ci sono seminari, ci sono c'è un'esibizione di un pittore fantastico, un pittore tatuatore Moggio, il napoletano. Poi abbiamo i seminari di Jean Barba e Lux Altera, due artisti fenomenali, concerti, performance, saranno cose molto interessanti.